Ah, cioè Cristo è venuto da dove ho disegnato io, ho disegnato un disco volante che emette raggi laser verso la Madonna che dorme in una panna e la mette incinta, questa donna. Io guardo la figura di Cristo e dico, ma Cristo è stato davvero crocifisso e poi è risorto. Se è risorto, dove è andato a finire?